Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Amici ed amiche, buonasera. Eccoci di nuovo qui come ogni domenica per farvi un'oretta di compagnia. E vi salutano Gesi e Antonio. Oh, caro Antonio, come va? Benissimo, grazie. Tutto bene? Sì. Hanno detto che fino al 16-17 ci sarà bel tempo e dopo non Ma so. Ma speriamo, noi ci adattiamo comunque. Allora, la parola a te con le tue... Allora diamo un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto che invitiamo alla nostra consueta passeggiata virtuale tra sentimenti, emozioni e ricordi sulle frequenze 88 e 70 e 94 e 60 in FM. Per chi lo desidera segnaliamo anche la possibilità di seguire il programma in streaming o di effettuare il download dal sito bluradioveneto.it. Con un saluto cordiale al nostro regista. Oh, questa sera abbiamo il nostro amato, simpaticissimo architetto Giorgio Fantin. Buonasera, architetto. Buonasera, avete scomodato di domenica Giorgio Fantin. Bentornato, è sempre una presenza molto gradita. È sempre una presenza molto gradita, molto gradita. Allora, prima di dare la parola a lei, ci ascoltiamo una canzone. Una canzone, diciamo che più che altro è un brano strumentale, di Renato Carosone. Suonato da Renato Carosone, ti ascoltavo piano fortissimo. Ed eccoci di nuovo in studio con il nostro ospite, al quale lasciamo la parola. Mi lasciate la parola a Giorgio Fantin, ma sì. Se faccio un po' di cronaca, siccome ai Gazzettini ti racconti, perché siamo già a maggio inoltrato, ma io vorrei cominciare quel 25 di aprile scorso, nel quale festa di San Marco, festa della liberazione, noi come congrega abbiamo fatto una festa, un'assegnazione, non è un premio, San Liberio. Ecco, chiedo scusa, interferisco un attimo, per i pochi che non conoscono l'architetto Fantin, è la congrega per il recupero delle tradizioni trevisane, questo discorso della nostra congrega. Esatto. E diamo, chiamiamo un distintivo di merito, è una spilla d'argento dorata, poi di merito di Trevigiani. È il terzo anno e mi sono commosso. Perché? Chi l'ha preso? Perché sono 10 persone che sì, noi diamo incentivi. Ed è venuto Don Ernesto Soligo, ah, sì, 96 anni, sì, con la carrossea, e che avevo suo parlare, che ho messo il microfono a parlare. Zemio Marcello Cocchetto, ah, 92 anni, sono andato a casa, albergo a Santa Bona. Zemio Menegazzi, ex direttore del Museo Civico, anche io in carrozzella dopo Sega il Sa. E dopo c'è sta l'avvocato Melchiori, c'è sta il geometra Fulanetto, novantenne anche lui, c'è sta Aldo Tognana, 95 anni, anche io. E dopo c'è l'Alba Campeol dei Beccherie, così tirami su. Dopo l'architetto Fontana, che è sempre insieme, Roberto Fontana, che magari ingressa tanto. E dopo un giovane, Raimondo Tauro, che è un imprenditore, la meeting qui a Villa Orba, insomma, ma che è stato il primo atleta italiano giovanile che salta in alto il 202, chi anni a mi ero a scuola con suo fratello Piveccio, e questo Tosato per me era sia come sportivo sia come imprenditore uno che distinto. Mega mandai malora, però come che parla anche a Yuga un gruppo di essere insomma queste cioè, cose qua era una cosa e dopo soprattutto se veniva Wanda Benedetti la Wanda Benedetti che sono da Torla non che vede tanto bene sì ma è e poi a mega dito ma non resto mia più usato mia mega dito sono a trovare la casa e mi ritorno a recitare che sono da ciappare una spilla di merito perché merito insomma con Tony Barpi che mi avevo conosciuto a Celarda verso Feltre sì, là così sì. E ora ho detto casomai conterò una barzelletta dopo mi sono raccontata ma insomma è una cosa eccezionale tutti mi dico, personaggi mi sono... recuperati da tempi per quello, per sì, quello sì. Voglio parlare a parte di un'altra idea congrega che portiamo avanti questa tradizione trevigiana ma dei personaggi dell'anno scorso c'è stato l'architetto Gemin di Nodinetto c'è stato tante altre persone e è il terzo anno che dopo dobbiamo fare anche fatica a trovarne no che ne sei panante 10 anni da premiarli certo. Ma non a premiarli avere dei trevisani che si è distinto quindi ma un riconoscimento esatto. L'anno scorso abbiamo parlato della Flavia qui dei caramelli in via Paestro ah sì certo. È vero ma sì. È tu sei che non sei né politici mi non voglio né politici neanche persone vogliamo delle persone significative per Treviso sì sì persone... E dopo sono andato in piazza perché ci ha detto Tognana, mica andare a parlare in piazza, sono il presidente sono dei partigiani, esatto. Però sono andato in piazza e era un pochettino capito perché parlava Lorenzo, ora si era appisolato un pochettino sotto il sole quel coso, quel fassolito rosso. Era mega commosso anche io, mega ringraziare, mi ringrazio io. E ora ho telefonato perché la congrega sempre ogni anno adesso facciamo una mostra di pittori scomparsi per far ricordare a voi altri qua che se veci sì, i nostri pittori scomparsi ma soprattutto i giovani che non sanno neanche il nome un'operazione di memoria necessaria e ora mi dà io comincio a fare queste mostre abbiamo già cominciato sarà la quinta e sesta mostra. Venerdì abbiamo inaugurato la mostra di Iuti Ravenna. Iuti Ravenna era il tempo del Pazzo Carminati, Venezia, amico di De Pisis, che c'è anche un quadro che era dipinto di De Pisis, che trovava un quadro e Tognana ha detto, oh, cammino un Iuti Ravenna. Vieni a Tormio. Ravenna è un nome di città, quindi... Ebreo mi penso, è nato non è Veneto però anche aiuti chissà cosa così sì, però sì, prima abbiamo fatto Cancian, abbiamo fatto David, abbiamo fatto Censotti, abbiamo fatto Darsino, abbiamo fatto Lino Bianchi Bariviera cioè da portare questi nomi che non dobbiamo dimenticarsi noi antivegi trevigiani, sì. E soprattutto insegnare a questi giovani che a tutte altre cose di sapere che abbiamo avuto anche delle figure significative, esatto, nel campo delle arti, cioè. E sono anche la Wanda Benedetti che aveva premiato anche la Wanda, sì, me la ricordavo perché era, l'ho conosciuta qualche anno fa a Cellarda, a Feltri, che aveva una casetta Beppi, dopo il morto Tony Barpi, ora, sì, siamo andati al funerale noi di Tony Barpi. Sì. Ma erano bravissimi anche la Wanda, solo che ci vede poco adesso. Non ci vede poco, sì, perché sì, siamo dentro a casa l'altra sera, però è simpaticissima, insomma. Ah, la simpatica, spiritosa proprio. Dopo, sì, sì. Ieri, a oggi, voglio dire, se termina una piccola mostra a Casier che io le barato, che a caso Garebi, comico rugby femminile, che trova fuori roba del 28, invece il nostro rugby a Treviso comincia il 32, ora prima, spille, cravate, giornali, robe storie. Vecchie passioni non da morire. Sabato scorso e domenica scorsa, e dopo qua invece questo sabato e domenica che finivo, perché non stai a capire io, perché, perché c'è stato il torneo di città di Treviso di Topolino. Topolino, che è sempre un grandissimo successo. Entusiasmante, bellissimo, simpatico, allegro, fenomenale. E bisogna che avesse tanto di cappello, insomma. Ed è finita anche una mostra che mi sono da vedere della famiglia Ciardi a Quinto, nel palazzo vicino al municipio, di Beppe, di Guglielmo, il papà di Beppe e di Lemma, con una documentazione anche qui si era sposata, fotografie e cose, simpaticissima, con un catalogo, e perciò anche qui è finita. In maggio finisce tante cose, insomma. Certamente. Ci sposeremo a maggio, ma con tante rose. Non so se si sposa più anche a maggio con tante rose. Dopo. Ma adesso qui in maggio, no, beh, avete fatto anche la festa di San Liberale, poi fra l'altro. San Liberale l'abbiamo fatta il 27. Sì. E siccome che a San Liberale non manca mai un fortunale, lunedì pioveva, esatto. L'anno scorso scravassava e siamo scappati via, sì. Stavolta nel pomeriggio abbiamo mandato ai canoniche, a Don Giorgio Negato ai canoniche, si venivano tutti i poeti, a declamare, si siamo divertiti, mica cosa che ho fatto, sono andato a chiedere riso, sono andato a Colomba, mi ha fatto un risotto, che mangia tutti anche da volte, riesi e bisi. È il momento conviviale, non mangia. Ma sì, mai, perché dopo le poesie così belle che hai declamato, sta bene anche a mangiare assolutamente. Beh, qualcosa bisogna sempre mettere sotto i denti. È quello che dà proprio il completamento dell'esibizione, certo. E adesso qui in maggio che festa avete? De maggio, allora, abbiamo questa mostra da vedere da Muscoli in Pescheria, Iuti Ravenna, tutto il mese di maggio, anche qualche giorno di più di giugno, perché dopo gli fa una mostra di fotografie. Dopo abbiamo una mostra inaugurata venerdì di Beppi Sbaiz, in via Leardi, che è la strada via Viale Luzzati, quella che porta alla chiesa, via Leardi, che porta il Sacro Cuore, esatto. Sul secondo fabbricato là a sinistra, Beppi Sbaiz è un avvocato, ma è delizioso negli acquerelli e anche nelle sue opere, la casa fatta è una mostra e va bene. E questa, anche questa si da vedere, insomma, perché maggio che porta avanti tutti i giorni dei più bei, ieri Mosè a Jesu, a maggio è stata una volta ai tempi nostri, insomma. E dal torneo di Topolino al Giro d'Italia che scominciamo meno, maggio è un bel pieno di cose. E, perciò si può riempire. E dopo invece vorrei parlare una cosa che faremo, perché ho parlato con Ivano Sartor. Ivano Sartor, che sta qua con voi altri. Mica ho sentito la replica della sua intervista. Aspetta un attimo, Giorgio, che prima di cominciare a parlare di questo... Sì, esattamente. Ecco, ci ascoltiamo. Al successivo brano. Che è quello che le donne non dicono. Thank you. ci fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi. E non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' e per la voglia di piacere a chi c'è già potrà arrivare a stare con noi. Siamo così, è difficile spiegare certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai. Delle giornate senza fine, silenzio, che familiarità, e lasciano una scia le frasi da bambine che tornano, ma chi le ascolterà? E dalle macchine per noi i complimenti del Playboy, ma non li sentiamo più se c'è chi non ce li fa più. Cambia il vento ma noi no, e se ci confondiamo un po' è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ancora con noi. Siamo così dolcemente aver ascoltato la Fiorella Mannaia, naturalmente rendiamo la parola al nostro interlocutore. No, il nostro interlocutore. Intanto, il primo maggio, che era festa dei lavoratori, una volta si faceva la corsa dei camerieri. Mi ricordo. Sono venuta anche a vedere la Congra, la ripresa, sì. siamo sul 9 anni, cosa. Quest'anno noi cerchiamo di ribadirla, ma facciamo a fine giugno solitamente, perché qua a Pescheria è una festa in Pescheria, sì. Allora la facciamo. Si rinverdisce. Però il primo maggio era mega telefonata anche alla CGL, il comitato, vedremo una mano, ma il primo maggio no, nessuno mi ha detto non niente, ormai niente, il primo maggio. Andato, qualcosa. Dopo vorrei ricordare che l'altro giorno, mercoledì della settimana passata, hanno presentato un libro di Renato Sartor, che era il segretario della fondazione, ha presentato un libro sui racconti nostri, mi ha detto tutte le bugie nostre che saremo tutto amico, lavora anche amico con la fondazione, la sarei messo a ridere, ma c'è un libro da leggere, interessante, insomma, di anni, sempre nell'ambito di anni passati, della potenza o della bravura dei Poli, e dopo un po' di declino che avevo, ma in effetti impegna soldi, insomma, sia ha venduto anche a Catron, che era un gioiello, ma esatto. Insomma, anche soldi. Il dottor Altarui, non so se lei si ricorda, lo il ricordo, dottor Altarui, sì, anche quello scriveva mi molto su tutte le riviste di Altarui, sì, o cosa sì, che sì. Scriveva era molto appassionato. Dopo a maggio, non so per cosa, perché si sposava a maggio, e mia maggio Goma una quindicina di compleanni, vuol dire che dopo gli faceva le fiol dopo 3-4 mesi dopo, no? Dico a Franca, mia amica e suo marito, uno il 14 e uno il 15, con Bizzotto il 16, con la François francese, con la Brigitte che è artista internazionale, artista, la moglie di Zotti, a Moscovetta in pescheria, con Renato, mio Moscovia. Compagno, un altro Paolo, con Elisabetta Perspettivi, con Gazzettina, così, un Giorgio, tutti a maggio, tutti a maggio, ho detto come mai che a maggio i doni a sposarsi e invece dopo il compleanno a maggio, una certa scansione. Io ce l'ho in giugno, dai. E anche Antonio ce l'ha, esatto. Noi l'abbiamo in giugno. Mi messo i miei genitori se la sposa in settembre, e in settembre è nato. Ma c'è un anno dopo mio fratello, insomma, mi sembra agosto, mi sta Leone. Va bene, da scanciare via. Lessico familiare. Ho portato qua una piccola locandina perché parleranno, io mi sto impegnando qualche cosa, della una poetessa cinquecentesca. Ancora del Rinascimento veneto, che parlo qua a Giusi che è poeta, a Gesi che è poetessa. No, ma io leggo solo quelli sì, degli altri. Ma a Canizzano fanno un giorno di rimembranza, così, e viene giù uno da milanese che vede cosa che ha scritto, perché una contessa Laura Brenzoni Schioppo del Cinquecento ha sposato lo Schioppo, poi Schioppo sono arrivati veronesi, sono arrivati a Treviso nella villa Morosini Schioppo vicino al cimitero di Canizzano, quindi sì. A Gavissuo un'altra Laura Schioppo e ora io vorrei ricordarla questa cosa con un discorso, anche una gita un po' di discorso di ville venete il 17 maggio nella chiesa di Canizzano. Focalizzando sull'opera di questa. Sull'opera di questa, poetessa. Perché arriva da Milano un cultore, qua, vi ho lasciato un filologo ecco, sì. Che ne parlerà, perché ha scritto un libretto sulle poesie della questa Laura. Di questa là, sì, del 500, sì. Bene, notevole. Bene. Poi vedo qui i luoghi dei poeti, questo itinerario che sarà chiaramente anche enogastronomico, presumibilmente, oltre che poetico. Una gita quasi che porta via cosa, perciò dopo sarà anche nel nostro. Devo dire che è una formula che io vedo molto interessante, molto importante, perché unisce praticamente, è multisensoriale se vogliamo, sì, o sì, sbaglio. La fa un po' adesso passi con i ville venete, no? Perché esattamente. Adesso cerca di portare e fare. Ma io credo che sia una strategia vincente questa. Perché altrimenti vedo riduttiva la sola, diciamo, presentazione delle poesie e compagnia, rimane un pochino pur interessante eccetera, ma forse non adatta a un vasto pubblico quale si vorrebbe. È che noi vasto pubblico una volta, insomma, intanto perché andavamo in bicicletta a Piestra, ma non neanche a partire dalla villa, perché ancora ieri un massa giovani per via, dopo sono andato perché c'è anche l'architetto Rallo che a Villa Pisani abita, ha fatto un giardino meraviglioso dietro e poi sono andato a vedere Rallo, la villa, anche la sovrintendenza, sì, io sono andato a vedere un'operetta, ma andavamo per il labirinto. Una volta abbiamo trovato chiuso, abbiamo saltato, siamo andati a fare vedere, siamo tornati in bicicletta, andavamo e Ville Veneti, Giraimono e altri, adesso si va a Fanzolo, ci fanno visitare Fanzolo, esatto. Belle, fanno riunioni. Ma noi ci dobbiamo appropriare, ci fanno riappropriare, sì. Farne visitare queste ville venete, che siano aperte al pubblico. È un patrimonio straordinario e misconosciuto. Fanzolo c'è, come si chiama? Non c'è una villa famosa? Fanzolo. Villa Emo. Villa Emo. Cioè, dopo Villa Barbaro, dove che c'è lo Zalotti, per esempio, dopo vi conto. Manteniamo pure il filo del discorso. Il discorso qual è? Che vorrei entrare in merito che qui da voi è venuto Ivano Sartor, che è non è caro amico, ma è amico e caro, vorrei dire, ma insomma non siamo un'amicizia eccezionale, però noto storico, di rispetto, diciamo, storico, esatto, sì, sì. Bene, proprio volentieri. E ho sentito la sua dizione, cioè, ma Ivano mi serve così così, perché noi della Congrega facciamo il 10 giugno, cioè salto il mese, ma, sì, sì, ma stiamo, avanti, stiamo sì, parlando, è tutto in piedi. Facciamo sempre la sagretta del Beato Erico, nella chiesetta giù di Via Canova, il tempietto, e ogni anno noi portiamo il pane, poi lo benediscono, poi se lo comprano, vengono i poeti a declamare, mettiamo due biscotti o se mai si beve qualcosa, ma tutto bene così. Con Ivano ho parlato perché esiste in via Sant'Agostino, nello snargo di via Sant'Agostino verso le Poste Vecchie, esiste un'edicola in marmo e pietra e marmo, capitello e basamento, con un affresco sbiaditissimo, non si capisce niente, del Beato Enrico. Un miracolo ancora da vivo lui. Perché Ivano mi diceva che verrà a parlare, ho già parlato, alla Biblioteca Nazionale di Parigi, ha trovato della documentazione 411 miracoli che ha fatto il nostro amico Enrico, in vita e in morte. In vita si vede nell'affresco, si vede Sarto. Lui, Papa Sarto? No, Sarto, perché lui ha tolto uno spillone, dice che c'era tagliato a mano, e dopo che ha toccato questo sarto, che era il sarto che giustava il suo saio, era uno spillone, e lo ha toccato e il lago si cava via, insomma, spariva via. E noi della Congrega, adesso io sto interessando delle imprese di recupero di affreschi, perché mi facciano un preventivo per recuperare l'affresco, anche con le sinopi, che chiedono poi alla sovrintendenza, logicamente, il permesso. E io mi sono già informato della proprietà del fabbricato, che non lo devono restaurare, se è una pianta, perché se lo inventano, ma vedere cosa si può ricavare. Esatto. Tra l'altro... Perché Renucci diceva, mettiamo un altro quadro là. No, è un falso. Esattamente. Ivano Sartor mi diceva che probabilmente è un affresco settecentesco, e mi ha fatto anche un nome del Zampini, che però sembrerebbe che ci fosse stato un affresco precedente a rilievo, con i bottoni, il cappello, con le ali a rilievo. Mi sono emozionato, ho detto, chi che guarda bene, perché si può vedere dei tracci ancora più profondi. Sarebbe bellissimo, costerà 3.000 euro, noi andremo a cercare, farò la lotteria, faremo tutti questi trevigiani che ne sente, che ne diano a man, magari a 100 euro a volta. Un piccolo inciso. Nel Trevigiano in particolare abbiamo delle imprese che sono straordinarie nel recupero, diciamo, in questo recupero di affreschi, questi restauri e cose di questo tipo. Veramente quell'arte che si sta un po' perdendo. Qui abbiamo ancora un presidio. Allora, io conosco il figlio di Dinetto, che ha l'alleanza, fa restauri completi, ma per chiese, per cui tutti stanno lavorando. Poi conosco la DMC, con cui ho lavorato, col mio... Quindi questa è una nicchia straordinaria, di capacità, di competenze. Mi fa ricordare che sabato, non più tardi di ieri, che me lo dimenticavo, ma volevo lasciarlo quasi anteprima dopo questo qui, abbiamo inaugurato una mostra in via Canova, perché l'ho accennato al Beato Erico, in via Canova. È una galleria nuova, proprio sulla curva lì, da alcuni mesi, e abbiamo aperto un amico, Giancarlo David. Giancarlo David era insegnante al liceo artistico, buono, gioviale, di tutto, disponibile, amico, tutto, dal buon bicchiere di vino, che godito che era anche. Siamo andati, abbiamo scoperto con lui, ho scoperto degli affreschi su un modo interminabile, li ha messi a posto qui, hanno fatto degli affreschi su un'osteria in via Riccati, ma una volta lo chiamo, da mio cognato De Vracchi, vicino a San Francesco, vieni qua, perché su un muro gli aveva cavato tutto un affresco, pare una finestra, gli aveva cavato via, di qua mica essere una Madonna col bambino. Allora Andrea monta insieme a Dopiere, batte, dammi un po', dammi una spugna di acqua, butta l'acqua sul muro, prova ancora a battere, tira fuori il temperino, tocca e dice: no, non è mia, Madonna, dice. Ostrega, mi dispiace, forse sei meglio ancora. E tu da fermare il corso. No, tranquillo. E gli mo trova fuori un San Cristoforo, gli era il bambino che si teneva sui capelli di San Cristoforo. E che magari sta ora un San Cristoforo eccezionale. Bello. E dopo bello. Altre cose ancora che. Perfetto. Bello. Allora, ci ascoltiamo la terza canzone, che è cantata da Giorgia, Di sole ed azzurro. Eccoci di nuovo in studio, qui facciamo un breve intervallo per ritornare su Storie de che altri. Vi ricordate naturalmente questa lettura di poesie prima in lingua straniera poi in italiano, che, per dire che possono esistere le barriere linguistiche ma non quelle dei sentimenti. Di Charles Baudelaire, dalle Fleurs du Mal, Tristesse de la lune. Ce soir, la lune rêve avec plus de paresse, ainsi qu'un beauté sur de nombreux coussins, qui de main distraite et légère caresse, avant de s'endormir, le contour de ce sein. Sur les dos satinés des molles avalanches, mourantes, elle se livre aux longues pamoisons, et promène ses yeux sur les visions blanches qui montent dans l'azur comme des floraisons. Quand parfois sur ce globe, en sa langueur oisive, elle laisse filer une larme furtive, un poète pieux, ennemi du sommeil, dans le creux de sa main prend cette larme pâle, au reflet irisé comme un fragment d'opale, et la met dans son cœur, loin des yeux du soleil. Bella, parlando bene si capisce, anche sì, francese. Sì, effettivamente. Bella, bravo. Bella, diciamo in italiano. Ecco, allora, tristezze della luna. La luna sogna stasera con più pigra mollezza, come una bella che supide di cuscini, con mano distratta e leggera carezza, prima d'addormentarsi, la curva dei suoi seni, sulla serica groppa di morbide valanghe, s'abbandona sfinita ad un lungo deliquio, mentre lo sguardo le va sulle visioni bianche come fioriture salienti nel turchino, quando, su questo globo, nel suo languore ozioso, lascia a volte in segreto scivolare una lacrima, un poeta pietoso, nemico del sonno, raccoglie nel cavo della sua mano quella lacrima pallida, iridata come un frammento d'opale, e la ripone nel suo cuore, lontano dagli sguardi del sole. Baudelaire, bravo, bellissimo. Grande Baudelaire. Che ne voglio anche io la traduzione. No, perché mi sono innamorato della luna. Bellissimo. Fa parte del mio carattere notturno. Allora abbiamo scelto involontariamente bellissimo, la cosa bellissimo. Giusta. Perfetto. Vero, allora sì, continuiamo la nostra conversazione. Niente, volevo continuare con questo mio amico Giancarlo David, di cui ho parlato proprio sabato di sera alle 6 di sera, e perciò sarà contenta anche sua moglie. Nel senso che è una mostra da vedere, perché io ho parlato dell'uomo, non dell'artista, perché l'artista è l'uomo. Sì, decisamente. L'artista viene fuori quando che ti sei uomo e tu sai dare le tue trasparenze, le tue intenzioni, le tue belle cose, anche le tue brutte cose se hai, lo sai trasmettere, lo fai vedere. Io non so cosa che capita, parla una cosa... un'armonia la parla. Niente, non ne voglio parlare bene in di modo lui, encomiastico. Vorrei però ricordare un'altra cosa che prima accennavo ad Antonio, che una volta ancora siamo andati a vedere un'altra casa in mezzo di capannoni industriali su un paese qui vicino, e nella quale io avevo aperto il piano terra, avevo demolito una parete di muro portante per unire, allargare le due stanze e farne una sola. Uno spazio più open. E mi sono accorto che avevo demolito degli affreschi. Allora ho chiamato Giancarlo, viene su, va, mamma mia che bello, cioè, c'era le due parti, c'era la parte alta, perché abbiamo visto anche perfino un San Giuliano scritto in coso. Sembrava, vedete, vicino a un fiume, qua così, cosa può essere? Può essere, vedete, una casa nobile, ma lui l'ha individuata o ne ha parlato come fosse magari dei frati scappati via da Venezia, su un fiume vicino al Sile, ma non voglio parlarne, certo, nemmeno. Certo. Perché? Perché ho detto, lo copriamo subito e vediamo di cosa fare. Lui è mancato, io mi sono dimenticato, questo mio cliente, amico, lavora o non lavora su questo immobile, sono andato a vederle con con uno della cooperativa, ecco, di Affresco, dove lavorava Giancarlo, con la cooperativa di MC, con il quale ho chiesto appunto adesso, anche per il Beato Erico, un preventivo di spesa. Certo. E l'abbiamo tolto questi pannelli che l'intonaco è degradato, si è degradato assolutamente. Prima era coperto di malta, poi diciamo con quando agenti atmosferici, quando ho detto si è degradato, irrecuperabile, è quello che si vede, si potrebbe recuperare perché è privato, ma non si sa neanche di farlo sapere o non farlo sapere. Certo, non voglio scomodare, varie, ecco, non voglio scomodare. E un'altra cosa, un'altra scoperta. Un giorno un mio amico qui, De Marco, un po' di Treviso, che lo considera con l'antelaula, ha sposato una signora di a Tremonti, sopra Amalfi, e per un seguito di un terremoto lei abitava su un palazzo in piazza di questo paesetto là, dove che Zenato Cappino della pizzeria. A Tramonti, dove che Flavio Gioia ha detto qua a Tramonti, cioè a Tramonti, su questo paesetto bellissimo fuori dal mondo, e perché tutto il soggiorno gli altri erano riusciti a metterlo un po' a posto, tutto l'affresco del soffitto era caduto giù, ma si teneva con gli spaghi ancora, tutti i lati, ed era fino a un metro da terra, tutto bombato così. Allora ho detto, qua bisogna venire con la squadra, prendere su prendere tanti spaghi e tirarlo su contemporaneamente, e magari riusciamo a riportarlo allo splendore. Ma siamo stati due giorni là nel nostro paese, anche ad Amalfi, insomma, e ci siamo divertiti. Lui aveva detto, mi impegno io a sapere da come che viene l'origine di questi l'affresco, perché bisogna studiarlo per rimetterlo a posto se serve. E tornò altri, ne basteria solo portarlo sopra. E poi quando è sopra lo mettiamo a posto. E lui si interessava di questo e dell'altro. Siamo andati al mulinetto della Croda. Porca miseria. E io l'ho messo a posto, io con i soldi Fondazione Casamarca per quello, no? E sono andati con Abate e lui, e hanno disegnato Berto Zanetti e Solimbergo. Gli ha fatto una macchina, gli ha fatto una macchinata. E mi ha fatto gli acquerelli, lui mi ha fatto un acquerello che io ho incollato su un panforte del mulinetto, così estraneo agli altri, di pittura immediata, come gli altri hanno fatto uno quasi uno schizzo, gli altri dell'acquerello anche di Solimbergo, è bello, ma tutto è ricercato. Lui l'ha fatto con la sua tecnica, che mi sembra poesia. Immediatezza, ecco. Quindi insomma, Davide, ne parlo. Io vorrei suggerire ai trevisani di andare a vedere in via Canova, sull'angolo, di vedere su questa mostra di Giancarlo Davide. Questo artista. Va bene. E poi abbiamo un centenario, anche di maggio, abbiamo un 750 anni del nostro amico Beato Erico, sono 700 anni. 700 anni. Ma c'è Dante che è imperverso. Allora, il sommo poeta. Allora, quando che i Gabrusava veccia al Ponte Dante, Romano Abate mi ha fatto un disegno enorme, un acquerello grande così, che hanno messo sul manifesto, dove c'è Geronte, il drago, con Dante e Virgilio seduti sopra. Sopra di loro c'è un drone che colpisce la vecchia, che brucia la vecchia. E lui è sotto, l'ha messo il Ponte Dante e ha messo Treviso a Dante, Dante a Treviso. È una sintesi meravigliosa. Meravigliosa, il perché drone, lui, c'è, cioè, il passato e il passato futuro. Lui l'ha inventato, perché Costantino ci parlava del drone. Ha fatto una, perché l'ho ingrandita. Sono quelle sintesi inconsuete, diciamo. E ho il piccolo disegno che ve lo porterò, perché è bellissimo. È interessante, e lui si sta interessando, ha imperlato anche Dario Fo, se viene giù. Ah. Io adesso mi sono informato col mio amico di Fiesole, perché giocava il rugby il calcio fiorentino. Calcio fiorentino. Se vengono a fare una partita, se vengono a fare una partita, qua che tocca non essere solo che botte. Vabbè, sì, siamo rugbyisti, siamo partiti. No, no, ma sono cose che avrebbe, con una promozione adeguata, avrebbe un successo clamoroso. Abate sta facendo una vecchia radice di 2000 anni di. Sì, ora conto, tanto è quasi pronto, di olivo, alla segheria, alla Slea Legnami, lì sta presente, sono 2,5 metri di larghezza, tutto, no, tutte proprio radice, poi radice alta, una radice proprio di olivo. Alta 2,5 metri, ma, di lavorare col piombo, con l'oro, io sta scolpendo ancora. Una scultura particolare. Siamo andati, la vorrebbe mettere, ha già l'ok del Museo Santa Caterina e fare un concerto al piano terra, proprio nella sala degli una affari. Cosa simbolica. E siamo andati a misurare a porta di marmo, il portone di marmo, è 2,40. Oh. È 2,40 metri. E detto, Romano, me lo mettiamo a sbiego, va bene, andiamo a sbiego, c'è con la gru, metti a sbiego, te un altro lo metti l'altezza, il portone aperto resta sempre a 2,40 metri. Te tocca tagliarlo, che dico, è il legno, taglio, e dopo aggiungo mezzo metro vite, che aggiungo piombo, aggiungo ferro, che aggiungo lamiera. Un simbolo sta bimillenaria. Sta facendo proprio una mostra, proprio una scultura per Dante, e credo che questo qui sarà un bel pezzo di ricordo a Treviso, perché a Treviso abbiamo il figlio di Dante, Pietro. E abbiamo anche Francesca, la figlia di Petrarca di quel tempo lì, vuol dire che si è passata. Esatto, e Treviso era un centro di attrattivo. E adesso andiamo alla prossima canzone, che domani è un altro giorno e si vedrà, la canta Ornella Vanoni. È uno di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La mia fede è troppo scossa ormai, ma prego e penso tra di me, proviamo anche con Dio, non si sa mai. E non c'è niente di più triste in giornate come queste, che ricordare la felicità, sapendo già che è inutile ripetere chissà, domani un altro giorno si vedrà. È uno di quei giorni in cui rivedo tutta la mia vita, bilancio che non ho quadrato mai. Posso dire ogni cosa che ho fatto a modo mio, ma con che risultati non saprei. E non mi sono serviti a niente esperienze e delusioni, e se ho promesso non lo faccio più. Ho sempre detto in ultimo, ho perso ancora mai, domani Eccoci di nuovo in studio per l'ultima tranche della nostra trasmissione. A lei la parola, caro architetto. Sì, Giorgio Fantin, che continuo ancora con Dante, perché mi riallaccia sempre anche all'abate che ho parlato della scultura, ma soprattutto perché io avevo buttato giù, mi piacerebbe scrivere un libro sulle polpette. Oh. Le polpette, sì, è roba che si mangiava a casa adesso, vorrei dire che anche il tiramisù è tutto un riciclaggio alimentare ed è tutte tutte robe avanzate, insomma, di avanzi delle cose. Ma mio papà mi diceva: sta sempre attento dei polpette, perché se io starei non ti non sa cosa che ti mai. E ora racconto una che dopo non posso dire niente, e basta, che una signora che trova una polpetta. Sente, cosa è? Una lamita. Oh, scusi signora, ha dato secondo polpetta, che ha tirato sul muso perché ha dato tocco della lamita. Ma Dante cerca, perché De Biscari, il famoso perché ti si biscaro, perché De Biscari ferma il maestro a Firenze, che dice: maestro, qual è il più buon mangiare? E il maestro Dante dice: polpette. Bon, e va via. Dopo il polpette sto biscotto, ma poi quel polpette va in cerca e non lo trova più. C'è venuto anche a Treviso, Dante sta a Padova, sta a Venezia, perciò trovare il figlio Dante che magari era a Treviso, così ora, perché l'ho scritto. Lui torna e lo ritrova, De Biscotti lo trova Dante a Firenze, che dice: le polpette con che cosa? E Dante ne sta sempre lapidario con lo sugo, che dice, polpette in umido. Sì. Ora mi scrivo dei polpette che mangiamo a casa mia e scrivo, ma accenno sto qua che con le tue. Ma lei come piace, da un sugo o fritte? Mi piace polpette, sia polpette. La nostra osteria adesso non si trova più, si trova. Sì, da Maria si le trova ancora. Dove c'è Maria? Maria sei in via di Dall'Oro. Via di Dall'Oro, non è cambiato adesso. No, ora vado da Maria. Benissimo. Al martedì. E mi vado sempre da Giovanni, là in via Manzoni. Se mangia dei polpette anche da adesso Piazza Trentin, che le compra da Stecca. Dico, tutta la cultura dei polpette. Giro, una tradizione. Un giro di tradizioni, di negozi, di divagazioni travisane. Di questo riciclo, diciamo, alimentare, insomma. Esatto. Ecco, anche perché la polpetta dovrei essere stata a parlare nel nuovo Expo. Sì. C'è l'Expo in piedi per sei mesi. Nutrire il pianeta, energia per la vita. Ecco, non mi interessa l'Expo come nome da vita, però mi interessa l'alimentazione. La declinazione del cibo. Perché stiamo perdendo questo senso, la globalizzazione ci sta rovinando la nostra identità culturale. Ma non italiana, francese, tedesca, cinese, che ognuno ha la sua identità culturale. Noi altri, in Italia, ogni regione ha la sua specialità di perlomeno 5 formaggi, per esempio, o 5 vini. Mi non mi piace beva i vini piemontesi che per me si è Massaduro, i toscani. Bevo il nostro perché lo digerisco. Ma è siciliano, Sagerno, Sardegna, Bari, ha dei vini ognuno eccezionali, pesanti, formaggi, in Francia hanno una ventina di formaggi, ma ne fa 200 perché le incrociate, certo, le quadre, certo, varietà straordinaria. Noi ne abbiamo, ogni regione ha delle specialità proprie, eccezionali, esatto. Insomma, mi vivo della mia provincialità e odio la globalizzazione. Purtroppo questa non mi adatto, i miei computer non li so neanche aprire, li apre i miei figli. Dai, in effetti, non ho il cellulare e me ne vanto. Sono le radici, chiaramente, del non ho il telefono a casa, però vivo bene. E anzi, spero, meglio probabilmente. Meglio, perché mi invidia, qualcuno mi invidia, e spero di morire prima di questa globalizzazione. Che bisogna gestire anziché subire, forse questa è la chiave di lettura. Esatto. E vorrei chiudere con: a Treviso hanno premiato, con Commercio e quel comune, hanno premiato le vecchie botteghe di Treviso. E c'è mio amico Barbieri, che io ho fotografato su un libro, Artigiani Ancora, che è eccezionale da vedere in via inferiore, da trovarlo, da farsi farmi. Adesso mi ha fatto 20 bicchieri con il San Giorgio. Non mi ha fatto il San Giorgio, perché mi ha fatto la cena di Giorgio da Procida. 30 anni, altra tradizione. Non mi ha fatto il San Giorgio, e mi ha fatto il Drago. Ah, il drago, dopo mi è cascito 30, che l'ho finito sul bordo, che non è tutto 30, e dopo Dei Giorgio. Là, asse arte, asse cultura, asse roba. Cultura, asse... Cioè, fare il drago al posto di San Giorgio al massimo, un po' come mettere Iago. De trovarlo, asse un rompiscato, perché è un muson, però è un artista. Deve vederlo, faceva fare un bicer su una sigla, ma deve trovarlo, sto artista. E un tableau che ha dato questa confumercio che ha fatto di teoni di queste botteghe, io se io che sei in via inferiore col quello che taglia col barbiere che sei in via vicolo podestà, e ora hanno ma dico che taglia io il teoni mi bicerri, diciamo andate a trovarlo perché sei un artista. Ma queste vecchie botteghe eccetera, qui c'è stato forse negli anni una disattenzione, una cosa straordinaria, peccato, si peccato, sarebbe potuto fare per esempio che so una sorta di borsa di lavoro come facevano le borse di studio per mantenere, perché io noto che questo spopolamento progressivo è una per le poche volte stiamo Dio perde l'identità anche questi trevisani, perché questo. Io mi dà una spilla del San Liberio, no premi delle certo. Le vecchie botteghe erano molto esatto belle, ma poi belle. Noto anche un'altra cosa che è fondamentale, questa mancanza di barriere sociali, l'architetto, il medico, l'avvocato si mescolano con l'artigiano, con il fornaio, con il pasticcere eccetera, senza quella dicotomia che esiste da altre parti, o sbaglio? E questa mi pare che fosse una tradizione, una caratteristica della trevisanità. Ma ormai tutti sono, ormai tutti sanno. E non solo della trevisanità naturalmente, ma delle altre nostre province. Tutti sanno, tutti gridano, tutti sono tutto ammucchiati tutti assieme. Manca una parola solo in Italia, Educazione. Ah, beh, questo è allora vero. L'unica è l'unica, perché con quello c'è tutto il resto. Sì, è vero, è vero. Dove che scomincia che e mamme bisogna che scomincia a dare qualche bestia fuori putei. Oh, vedi la mamma di Baltimore e anche due e anche tre. Mio papà ne ha dato una unta solo una volta, che se ricordiamo tutti, mio papà mi mega cava via dai Greenfield. Mio papà. Se non c'è educazione, basta. Il passaggio di passare una donna che passa più. Per strada. Non ce n'è più educazione. No, allora il problema, manca tutto. Non è che parliamo poi politici. Siamo passati da maleducati, poetici, parla male, vero, tutti parlano male. Vero. Questa è la base. Siamo passati dalla comunità, che eravamo in epoca contadina, alla società che siamo oggi. Alla provincialità. Esattamente, ma la società rimane assieme solo se ci sono degli interessi, giovani, mentre una volta la comunità era molto più forte del singolo individuo. Perfetto, ma era singola singola. Ed educava, eccetera. Adesso educare sembra ma quasi una parolaccia. I giovani oggi parlano, ma senti per strada, tanto gli fa dire una parola. Niente, comunque... Anche parolacce, anche no, adesso devi parlare, mi hanno mai detto parolacce. Sì, ma c'era quell'eleganza di un tempo, quella modo di stare assieme, sì, eccetera. C'era quello sempre che ha sempre bestemmiato, non si prevaricava, ma non si prevaricava, diciamo, c'era, si risolveva il tutto un po' come Peppone e Don Camillo, si risolveva il tutto con magari la scazzottata e dopo si restava amici di prima. Adesso è tutto dovuto, perché adesso tutti non lavorano. Io vorrei mettere una zappa e esattamente lavorare il terreno. Questa sarebbe la vera cura col culo per aria. Ma vogliono lavoro che non vogliono i soldi, voglio i soldi di nonni e di genitori. Esattamente, la colpa della generazione precedente, evidentemente. Sempre colpa delle mogli che non gli dà più botta ai figli. Allora leggeremo la mamma di Baltimore ad esempio, ma anche maestri mamma ideale, mamma tigre, diciamo. Mamma tigre. Ecco, noi siamo arrivati qui pronti per così l'epilogo, naturalmente è sempre troppo presto, ma è, diciamo, dura l'ex. D'altra parte un'ora e 60 minuti. No? La prossima volta avremo Ivano Sartor, tanto ma per essere contento. Bravo. Esattamente. Me lo salutate. Ma il nostro architetto però l'avremo senz'altro prossimamente. Molto sì, bene. Allora, salutiamo tutti e grazie all'architetto. Grazie a voi invece. Al mio caro amico Antonio, che è sempre presente, sempre serata. Bravo, sempre tutto. E diamo appuntamento domenica con un ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.